Babbo, tutti morti? C'è qualcuno qua su questo canale? Ah, prova? Prova, 1, 2, 3, prova radio. C'è qualcuno su questo canale? Tutti morti, Babbo. C'è un rumore fortissimo. Ehi, buonasera. Ciao, ciao Antonè. C'è un rumore fortissimo di alternata. Di alternata? Ma stai scherzando? Sì, sì, di alternata, forte, ma molto forte pure. Oh, strano, l'altro giorno non avevo niente. Sono stato con questa baracchina, la verità si dica. Comunque sia, boh, non lo so. Beh, come l'altro giorno stavo bene, l'ho visto, oggi è morto, Ah, non ho capito nulla. Ho detto che l'altro giorno l'ho visto, era vivo, stava bene, oggi è morto. Ecco. Sei troppo alto, Cla. Non be' alto, mi di demonolazione. Bravo, di regolarlo, giusto? Giovanna? Giù, tu capisci, sì. Io no. No, sta uscendo malissimo Claudio. Antonio, con rumore tremendo, fortissimo, ma forte veramente. Aspetta che cambio cosa. Passo con l'altro apparato e siamo a posto, dai, 2 minuti. Adesso ho diminuito, vedi un attimino, fai il favore. Ah, pensavo che eri Claudio, ciao Fabi, salutone. Adesso va bene. Vediamo un po' di regolarla, boh, era mesi che non usavo questa radio. Adesso va bene, lasciala così, non toccarla più me, non toccarla più, va bene così. Ma è croccante almeno. Allora si capisce adesso. Sì, ma è croccante almeno. Ciao, Gio Maria, è croccante. Croccante? Sta uscendo bene, si è bella amplificata. Eia, sì, quello sì. Va bene, vai e buttala quella radio. Cosa butta quella radio? La verità è che non c'è buttare, se la metto io, no? Forse anche l'altro, non so, non se la metto io. Gio Maria, di quanto sta uscendo male hanno chiuso tutti, vado. Ma va, chiuso nessuno, non ti preoccupare, mamma mia, sei spaventato, sì. Hai guardato bene, sei a posto, sì. Sì, ma sei incomprensibile. Come incomprensibile? Io? Eia, c'è alternata incredibile sotto, cioè, non vuoi sentito. Aspetta un secondo, ti aggancio l'altro apparato, così mi siamo a posto, vabbè. Così ti regoli, vabbè. 2 minuti, lasciami 2 minuti di tempo. Allora, se va bene, sì o no? Adesso va meglio. E non mi dire che ti è uscito male, perché non è possibile, Sto usando l'apparato dell'armatoriale, quindi a un certo punto non vuol dire che c'ho tannata. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso già va bene, poco fa era incomprensibile. Ma dove sei? FM o M? Come? Te sei in AM o FM, ho detto. In AM sono, dove vuoi che sei in FM? Allora già va bene, ok. No, perché c'è il tipo strano di radio, sembra che tipo FM. No, ho detto c'è in FM, in AM, che non uso mai questa radio. Ok, vabbè, io sono in AM, tranquillo, sono con l'FT, figurati. Anche con gli AESU, già lo sai anche tu, quello che ho io. Non è che sia un cesso, ma già va bene. Sì, che già va bene, dai. Poi, no, ti ho sentito, sono entrato per dire che stavo uscendo male, non per altro, ero in ascolto, ma stavo facendo altro. Ok, d'accordo, non c'è problema. Andrà bene, Mela. Sono contento. Se sei contento tu, siamo contenti tutti. Io già lo vedo. Ah, boh. Ma non c'è nessuno qua. Boh, non lo so, basta chiamare, boh, a un certo punto qualcuno si farà vivo, anche cadavere. Vabbè, dai, che mi leggo due cose che rimango qua in ascolto, ecco, meno male che ho fatto mettere a posto l'apparecchio, così se esci bene, vai, sei contento, controllatelo perché ha qualche problema di massa qua quello che c'ho io, e vabbè, non ti preoccupare. Ho buscato un coso, un Saturn Echo 100 euro. Adesso me lo sistemo e me lo sono a posto. E proprio sono metto il fusibile, quindi sono a posto. Vabbè, dopo già sono qua. D'accordo, non c'è problema, già sono qua. Anch'io. Avanti, vuole entrare, chi è? Fabri. Dimmi. Ascolta, c'ho un Inter che è qua, forse tu lo conosci. Portate, mi hanno KT250EE. Ma si può programmare oppure normale così come rimane? Ma non ce l'ho presente questi apparecchi, però io non ce l'ho presente, non ce l'ho presente. È VHF nero. KT250EE VHF. Di che marca è? Intec, la verità, la marca Intec. Boh, non ce l'ho presente. Aspetta un secondo, due minuti, facciamo la prova. Fabri, guarda se nella frequenza di Walter, quella 145,27, 145, 525, senti il fischio con gommino. Sì, lo senti, ok, a posto allora, non c'è problema. Allora, poco, sai cos'è? Che questo c'ha più 600 meno 600. Il discorso è quello. Come duplex in pratica, però esce bene, la verità, la verità esce bene. Ma quello è lo shift, è normale che un apparecchio ce lo deve avere, se non fa niente. No, perché in pratica il 4 è della Inter, che mi sembra che il 4, no, 4, non so, non mi ricordo bene la verità, comunque sia, c'ha meno 4, 6 e più 600, il discorso è quello. Quindi dovrebbe essere, questo dovrebbe essere il primo che è uscito, cioè il primo che l'ho fatto. Non lo conosco, diciamo, magari lo vedo, lo riconosco, ma così... Ah, come la picchiriola, Pompo? Non ho capito. Ho detto, sei come la picchiriola. No, senza picchiriola, già lo sai. Non ti preoccupare. Siccome io mi ricordo che l'altro modello della Intec, anzi forse l'ultimo quello che l'ho fatto, in pratica c'hai 4,3 e poi più 600, cioè meno 4,3 volte più 600, il discorso è quello. Invece qui io ho meno 600 e più 600, il discorso è quello. Capito. Ciao Fabrizio, anche a te, saluto. Vabbè, dai, ce l'ho qua in ascolto. L'antenna è a posto, ci aveva la carta in corto insieme al positivo. Quindi l'ho sistemato, adesso c'è 1 e 1 a posto. Ma che frequenza è, Pompo? No, 700. Adesso è a posto, è tranquilla. C'è il cavo che era tagliato sopra, infatti che era verde, non mi sono neanche accorto la verità. E toccavo il positivo, quindi andava in corto. La sera ho tagliato, ho sistemato tutto. 1 e 1 in stazionale, no, sono tranquillo, cazzo, mi sembra abbastanza. Prova a fare chiamata in PMR a vedere, 446-88, vediamo un po' se ti sento, vai. Beh, se aspetti 5 secondi, sì, perché sono con lo coso, 2 minuti stacco un'antenna e attacco l'altra. Ebbene, non ci riesci. Ciao già, io. Vabbè, io sono in ascolto, stavo riparando la scheda. Ehi, ciao, buonasera. Marco, ti saluto, dai. Ci sentiamo domani mattina. E chi è Marco? Orru. Stavo parlando con Marco, con mio figlio al telefono, ho preso la portata per fare. Ma che allora, stavo parlando sia con Marco che con te. Poi ho tenuto la portata abbassata e ho parlato con Marco. Ha detto che chi è? Non sento nessuno Marco. sono cose che succedono anche fuori di campo. Beh, comunque c'è Bomponio, c'è, dai, c'è anche Fabrizio, un ascolto. Io sto riparando la scheda già. Buonasera Bomponio anche a Fabrizio. Avanti Fabrizio. Sì, sì. Ehi, buonasera, aspetta un secondo che faccio la prova in con una antenna, 2 minuti con 2 secondi, aspetta, rientro subito qua. Ehi, ci sono. Buonasera, allora, come andiamo? Buonasera Gianni, ben sentito. Tutto ok? Perché c'era quell'altro che stava facendo un casino, ben sentito già. Ehi, e cosa stai combinando? Aggiustando stai? No, non sto facendo riparazione, non ho tempo di fare niente, sono anche in stazione, sta entrando poco e niente, infatti non mi avrete nemmeno più sentito, e poi sono rientrato dalle ferie, ho avuto delle cose da fare, quindi non ho avuto tempo di niente, e quindi adesso in questi giorni adesso sono entrato ogni tanto, adesso un po' di più sto rientrando a vedere alcune cose, ma niente di particolare, sto facendo poco e niente, ho un sacco di cose da fare già. Nemmeno là stai facendo attività, Sì, poco e niente, però nemmeno lì, poco e niente. Lo so, quando c'hai altri impegni bisogna dare priorità alle cose, è normale, ma c'è una cosa sempre che ci abbiamo, che non scappa, già la possiamo usare sempre quando ci fa piacere e abbiamo il tempo, è una bella passione. Sì, ma infatti no, non è un problema, dai, non è un problema, adesso sono in questi giorni magari un po' di più, ho ripreso in mano un paio di apparecchi che avevo fermi mesi, che li ho ripiazzati, li ho messi via, non ho tempo di fare niente, non ho più tempo nemmeno molta voglia, perché lo sto dedicando il tempo ad altre cose, e prima volta quando sono a casa non ho voglia di accendere la radio, me ne vado sul divano, sul letto, e accendo la televisione, mi guardo qualcosa che non devo fare passivamente, e guardo solo, non ho voglia. Sta diventandoci a bastone. No, già sono sempre in giro, maledizione, e poi quando rientro a casa mi voglio stare più tranquillo e non ho molta voglia. Come sto uscendo bene il radio, è troppo, è poco amplificata. Per me è troppo forte. È un po' forte, no? Aspetta che allontano un po' il microfono. Già è bella, però è molto forte, è molto prepotente. E questa è la radio che la fa diventare prepotente. Cappa. Che cosa stai usando? Un cappa? Sì, il mio sto usando, cioè, di queste ce ne ho bambini da giocare di queste radio. Che cosa c'hai di campo? Faccio il 2430 e 2440 e un 430. Tutti messi bene sono. Sì, questo è quello che sto usando io, il 430 ce l'ho qua e fermo che sa quanto devo riaccendere per vedere, e l'altro 440 è quello che Riccardino. Ah, sta pagando. Comunque è il King, è sempre il King, due buco, ma in AM va bene. Ce ne sono pochi che vanno bene qua in AM, che li vogliamo studiare. Ce ne sono, però che non va, che vanno bene così, no. Lo so, questo va bene, vecchio stile, buh. Ma Riccardino, non avete più sentito in radio? No, è un periodo, ha detto che ha dei compiti da fare, deve presentare dei compiti e cose, quindi ha detto che stava studiando, che se ce la faceva, l'ho sentito via WhatsApp, perché gli ho mandato una macchina a mia famiglia. Una macchina che ho fotografato, siccome sotto il padre c'è la passione, mi ha detto guarda c'è la uguale papà, però non c'ha i fascioni, non c'ha i fascioni in legno. Ho capito, sì, no, perché no, vabbè, io sto accendendo quel poco che accendo, non lo sento, e magari lo sento al telefono, no, ogni tanto, però fatta entrare questo ragazzo, ragazzi, non fatti di perdere la passione, poi cacchio dovrebbe perdere la passione, non credo, perché lui sta sempre, però... No, Fabi, non dipende da noi, dipende da lui, io l'altro giorno l'ho sentito e l'ho detto, prima dopo era quel piacere, quando c'hai degli archivi di tempo entra, sì già entro, adesso quando finisco di fare questi compiti, di studiare, già entro. se io gli ho detto prima non fare quel piacere, quando hai il tempo puoi entrare. E lui mi ha detto che già entrava, poi non l'ho più sentito, nemmeno io. Bene, bene, no, va bene quello, che sembrava che non ho più sentito, poi magari qualcuno gli ha detto qualcosa, visto che era un ragazzettino, e magari ci è rimasto male, non sta pensando, io ho pensato a quello, ma l'importante è che stia studiando, Come Riccardino è sempre entrato, si è trovato sempre bene, io tratto come una persona grande, anche perché è un ragazzino che ha cervello, si vede, è molto educato e tutto, quindi fa piacere sentirlo. Sì, no, ma è un bravo ragazzo, un ragazzo di altri tempi, e per quelli che vedo in circolazione, lasciamo bene. Sì, vabbè, ma sono quelli i migliori. Sono quelle le persone migliori. Non so chi si scappa estratti, mi sa di lì. Lo so. Avanti, un foglio. Sezione 10, c'è qualcuno? Avanti, Roberto. Ciao già, nessuno va. Sì, c'è la Fabrizio in ascolto, c'è Luca, sempre in ascolto e anche Pomponio, tutti in ascolto sono. Sì, ciao, Robè, anche rientro dopo perché lo spagnolo a 5.25 ed è strano in questo periodo, provo a chiamarlo a vedere, scusa. Ciao Fabrizio. Fabrizio, ho mandato quella macchina che ti stavo parlando. Sta uscendo male Fabri è tutto distorto. Perché c'è un'altra radio accesa, aspetta. Stai spingendo un becca, che sei 9.50 da me. Fabri sta sempre segnato di gru. Buonasera a tutti. Scusa se non ti ho chiamato, ma era casinato, mi sto rientrando adesso che ero in Piazza d'Italia e c'è una manifestazione dei bar, sono andato a prendere la mia figlia. A proposito, un beligente, ce l'ho scendere io, però non ho avuto tempo. Un beligente c'è. Sì, è pieno. Una grande manifestazione pacifica, adesso vediamo, siamo a 31.000 contagi, quindi penso che la prossima settimana chiuderanno tutto sicuramente. Pezzenti, cazzo, va, mi dà un fastidio, un'attività, uno che vuole partire, c'è tanta gente che con cosa ha preso piccole attività, piccoli bar, aveva fatto degli investimenti, cazzo, stanno rovinando l'Italia questi bar, mi va bene, me ne metto zitto. Non dire a me, lascia perdere, a giugno parte una figlia, quindi siamo poveri, siamo da un po' punti a capo, contatture e perdite, ciao Gianni, ciao anche a Fabrizio mi sembra, ciao a tutti comunque. Vi lascio, mi sto rientrando adesso, non io voglio parlare. Riprendi Gianni. Ciao Claudio. Mi sentite anche a te. E via. Fabrizio, vieni avanti, dai, che c'è Roberto. Quindi parli anche con lui. No, ho capito che sta facendo una telefonata, mi sembra, Ci riesci, vabbè, ci aggiorniamo la prossima settimana per così dire. Vediamo un po', dai, se trovo un buco, già se riusciamo a trovare un buco te lo faccio, dai. Va bene, dai, ok, ciao, buon proseguo a tutti. Ehi, dai, ci sentiamo con calma, dai. Fabrizio, già ho sentito che forse stava facendo una chiamata, non ho capito. Ho sentito male, da tutto di sotto, forse c'era qualcosa al sottofondo, qualche radio, Sì, ha detto che c'era la di accesa, non lo so cosa sia successo. Ma sta arrivando fortissimo, 9.50 qua, a parte Claudio, quel segnale ce l'ha, non ce l'ha nessuno, se ne arriva così forte. Lo so, ma Fabrizio è sempre arrivato così, anche qua arriva forte. Vabbè, c'ha una bella posizione, lui poi c'ha una bella antenna, non so se sta usando la mantova o se sta usando qualche altro tipo di antenna, ma già si fa sentire sicuramente. Vabbè, mi è arrivata amico la cassa di cui ti ho parlato, è un po' buzzocca. Quale cassa? Quella che ti ho detto, che ti avevo detto che ho ordinato su internet, quella che c'ha radio, pennina, che si illumina tutta, di quella che tu mi hai detto che te l'hai comprata anche tu da Confora, ma mi piace. Sì, no, ma io pensavo ce l'avessi già, non pensavo che la stessi aspettando. No, la stavo ordinata, non ce l'avevo ancora, adesso ce l'ho, te l'avevo fatta stamattina. Ah, ho capito, ma no, io pensavo ce l'avessi già quella lì, infatti stavo parlando come convinto che tu ce l'avessi già, infatti ho parlato della mia, confrontandola alla tua, convinto che ce l'avessi. Tutto a posto, zocca? Sì, va molto bene, il sole è molto pulito e non si può tenere a tutto il volume assolutamente perché un appartamento fa vibrare tutto, è un casino. Però è bella, me la uso anche come radio perché così almeno quando faccio le cose in casa me la accendo, mi ascolto. Vabbè, ci avevo già quella macchinetta, non so se tu ce l'hai presente, che si accendono le luci, che piccolina, ma si sente di un bene che è allucinante. Io sono un appassionato come te, mi piace la musica e ce l'ho pure da tutte le parti di musica. Sì, sì, vabbè, sono un appassionato anche come me. Proprio oggi stavo parlando con un amico, forse mi riesce a fare una cosa che sto cercando, questo fa service, lui c'ha un bel impianto, cazzo. È sempre mezzo alla musica lui, fa tutto, da tutte le parti, il fratello poi è il coso, il meccanico di Leclerc, mi ha portato un po' di roba da lui, le magliette e tutto, cazzo. Ha detto buscami anche il giubbotto, detto, vediamo un po'. E stavo parlando come fa il service, ha detto buscami che devo piazzare un traliccio. Loro c'hanno gli americani quelle cose quando fanno tutti i palchi, li avevi visti dove mettono le luci, i fari? Sì, sì, le torrette si chiama. Loro le chiamano americane, dai, quelli in alluminio che sono triangolari, altri triangolari o quelli quadrati. Ho detto buscavo in un paio un 3 metri, gli ho detto, che poi ci metto un'antenna sopra, così non so con tiranti e cose del genere. Cosa ci vuoi mettere? La direttiva? Ehi, volevo mettere la direttiva di lì. Ma il rotore ne hai? Sì, c'ho anche il rotore, certo. Ah, appagato. Va bene allora. Quella è una direttiva per la 27, confermo. Sì, no, ma a me piace ascoltare pure, fare la mia soddisfazione è ascoltare cose che magari gli altri non riescono a ricevere, ma è tanto a farmi sentire, non me ne affutti nulla. Io sono un grande ascoltatore, diciamo, in tutte le bande, tutto qua, e cerco sempre di tirare fuori le cose più difficili, le cose che non è facile da tirare, a iniziare dai satelliti a finire con le radio normali. Sì, ma infatti. Che ha queste passioni dei santetti, io pure non so, non l'ho mai fatto sinceramente, però dovrebbe essere anche una cosa carina. So che anche il figlio di KP2 segue i santetti, lo stava dicendo. Già lo so anche lui, però diciamo è un altro tipo di discorso, lui ascolta solo, io vedo nei satelliti più che altro per vedere, ce li ho motorizzati, gli impianti per vedere, lui fa per ascoltare le stazioni spaziali quando ti passa sopra, oppure c'è il satellite dei radioamatori che quello diciamo è abbastanza stabile, se c'è una buona antenna in ricezione riesce a fare qualcosa. È una passione, ti dico cosa ci trovi in queste domande? Cioè, cosa ci trovi per dire andare a fare pesca su barca? A te ti piace, a me mi piace fare l'uno e l'altro. Non lo so, ma io ho nato un burro dopo di passione già. E infatti mi devo dare una calmata pure. Ecco. Avanti il brecco. Ciao Rombe, ci sono rientrato, scusa che sto facendo una prova. Adesso c'è un'altra modulazione, ma hai cambiato apparato? Aspetta Rombe, aspetta che abbasso qua la testa al radio. Sto uscendo, sì. Sì, sì. Non ho cambiato niente, Rombe. Ma poco fa ti sentivo un pochettino saturo, adesso ti sento meglio. Ho abbassato qualcosa. Se mi ricordi no, potrebbe anche essere. Ok, no, adesso sta andando bene. Ok, tutto a posto da parte mia adesso. Vabbè, anche Gianni sarà la stessa cosa. Qua stai arrivando fortissimo. 6,9 più 50. Io quando arrivo dalle tue parti, Fabrizio? 9,40 in questo momento. Ma una domanda, che antenna stai utilizzando tu su questa banda? 9,40 con picchi positivi a 9,45. 9,40. La Stellar. C'ha una bella resa, cavolo. Considerando che tu sei più lontano di qualcuno che, di quelli soliti che arrivano a bomba qua, però sta arrivando fortissimo. Non so quanto ne stai dando, però sta arrivando alla grande. A parte Claudio e qualche volta Pompugno, nessuno ha questo segnale così forte. Ma se lui arriva a bomba, io arrivo a bombetta allora. A bomboletta si dice. Vabbè, se lui arriva a bomboletta, io arrivo a bombetta. È bello, no, tu sei sempre il più forte di quelli normali, l'ho sempre detto Luca, considerando la tua posizione sei quello più forte, secondo me, di quelli normali parliamo, senza la marmita a spillo e con i pezzi normali. Andare, vabbè, io la sera l'ho riparata e me posso anche scappare, là, buona serata. L'antenna è riparata, che cosa stavi facendo? Una scheda di una TV già. Ah, pensavo che se si costruiscono qualche antenna. Mi piacciono queste cose, quando trovi il danno, guarda, non c'è cosa più bella. E vabbè, dai, avrei voluto fare un corso Vittorio Emanuele, corso Vicco. Ci sentiamo dopo, dai, ciao. Già ci sono i corsi, se li vuoi fare. Ciao Luca. C'è anche quello scuola radioelettra. Ma non ho troppi dinami, buoni già. Senza dinami, manco un pugnaucci di dati. Avanti Fabrizio. Ciao Luca, io li sto dando gratis in mia faccia, senza problemi. Grazie. mi sto divertendo, quindi se qualcuno ne vuole venite qua gratis, non prendo niente a nessuno, niente a nessuno. Vabbè, considera comunque robe che io ce l'ho a... vabbè, anche quando era bassa l'antenna andava lo stesso così, solo che adesso è in punta al traliccio a 12 metri. Sì, questo cos'è? 44? Sì. Dimmi un po', quant'è il microfono? Quanto l'hai messo? A uno o un po' più di uno? A uno più o meno. Allora come questo? La posizione del coso, la potenza com'è? Più di 4 o meno di 4? A 2 ce l'ho, a meno di 2. Però gli avevo fatto l'altro giorno, ti avevo mandato il filmato, non mi ricordo più quando gli avevo toccato, non me lo ricordo. Io mi dimentico delle cose, se mi ricordavo delle cose diventerò un drago, però purtroppo me le dimentico. La mia c'ha dei picchi mostruosi, non so se ti li ricordi. Sì, sì, c'ho il video, ce l'ho sul cellulare, me lo sono conservato perché poi si sente anche la mia voce quando parlo io, infatti me lo sono sentito conservato perché c'aveva dei picchi allucinanti, infatti quella radio è impressionante per quello. Ma ci vuole poco, anche quell'altra che ho prestato a Riccardine così. Non lo so, quel cavolo dove avevo giocato, non mi ricordo su che cosa avevo giocato. A ricordarmelo, devo segnarmela le cose, se no ogni volta ci devo ristudiare. E comunque già rende parecchio, visto c'è un bel segnalone, cioè qua. Ok, vabbè signori, io vi devo lasciare, devo fare cosa adesso? Ciao Gianni, ciao Fabrizio, Claudio se in ascolto, Luca e eventuali amici su Canale 10. Poi Fabrizio, se ti capita qualche minuto di tempo, pensa a me come ti ho detto grazie dell'altro giorno. Ehi, non mi ricordo nemmeno, c'era un apparecchio da controllare. Hai capito, quello lì che deve dargli uno sguardino, che magari fatto da te vari 5 minuti lo ti metti, perché secondo me per quanto ne capisco io probabilmente può essere anche una fesseria. Quando lo ripari è tutta una fesseria, ricordati una volta una resistenza, un transistorino, provare a arrivare a trovare quel componente. Ascolta invece, quel ciao che tu stai mettendo a posto, io ne sto facendo uno, un problema. Anche a me manca un fianchettino e un macello trovarlo. E il parafanghi, secondo te, posteriori se ne trovano? Di che cosa stai parlando? Nel ciao prima serie, quello che c'è tu, RL. Ma voi anteriore o posteriore? Posteriore. Forse c'ho qualcosa io, avvicinati, le diamo uno sguardo, che ne avevo due, c'avevo anche un altro telaio io. E poi c'ho qualcosa di nuovo, Fabri, dai, già ti risolvo il problema, dai, troviamo il modo di darlo. Guarda se ce l'hai, perché non riesco a trovarlo. E l'altro è pronto da spruzzare, solo sta aspettando il parafango posteriore, così lo metto, lo inizio a dargli una mano di colore e poi almeno pian piano inizio a rimontarlo, solo che senza quello è un problema. No, dovrei averlo, dai, guarda un po' in mezzo alla roba alle imbarazze, dai, quello io non butto mai niente, queste cose le devo. Poi l'altro giorno mi hanno regalato 3 trigoli, cacchio bello, uno 98, quello che ci ha sabato io cromato, cosa, quei documenti. Era un amico, ha detto, beh, per dare un altro, c'ho troppa gente appresso, mi ha detto, te lo regalo a te, cacchio, almeno so che tu lo fai bene, cosa. Ma ha dato una marea di pizzi, ne ho riempito il doblò, ho fatto 2 viaggi per caricare la roba. Buono, quello è bello rimesso a posto. Ma tu l'hai visto lo trigolo, quello che ho fatto io? E ne ho visto più duro, però quello lì magari no, adesso così non ce l'ho in mente. No, è bello, bello, diciamo, a chi piace. E poi ci ho fatto conto al lavoro un GT 124 della 125, non so, 125 GT della Guzzi, bello, quello abbiamo finito, però c'è una pedestatura, dovevamo cambiare una guarnizione, Mariani, e poi l'abbiamo fermato, però è bello anche quello, sono molto, niente di impegnativo, però sono molto carine, dai. Quando capiti già te le faccio, poi il Mondial te l'avevo fatto vedere, il ciao mi sembra, l'hai visto? Sì, sì. E ne ho poi adesso, a mio fratello ieri mi hanno detto che c'è un amico della moglie, non so, il cugino della moglie, Olga, deve andare a prendere, non so se te lo ricordi, il Guzzi, il Dingo Cross, l'hai conosciuto tu? Ho capito, forse sì. Una moto anni 70, è un po' messa male, dai, però è completa, è un cinquantino, bellina, dai, io l'ho avuta e poi avevo fatto scambio, non mi ricordo cosa l'altro, tanti anni fa, però ci dobbiamo andare lui a prenderla. Vabbè, vi saluto di nuovo, dai, vi saluto, Fabrizio, guarda, domani se riesco a 5 minuti te lo guardo, te lo metto da parte, dovrei averlo, anteriore è sicuro, nuovo. muovi, c'è l'uomo più di palla. Però diciamo c'è un sacco di roba a me, perché Omar lo conosci, ci ha dato mezza officina alla fine, mi ha detto te portate via tutto, a mio fratello c'è una marea di roba, 5, Blue Legge, qualunque cosa del ciò ci abbiamo. Perfetto, guarda che sto facendo a fango. Ma non è quello che stavano, che ho visto su Facebook, che stavano dando via, regalando, forse è proprio un dinco, è un coso della... della Guzzi. Sì, quello lì dovrebbe essere. Infatti io devo andare a prendere il Dingo Cross della Guzzi, un cinquantino, che monta il motore, che facevano anche il ciclomotore normale, c'è la marmita esterna con le coperture cromate, dai, all'epoca era una copia brutta del Caballero, là. Ho capito, ho capito. Ero convinto che era Sassari quello io, boh. No, è Olga. Vabbè, vi saluto, dai, che do qualcosa. Dai, Fabri, passa quando vuoi. Io domani, se alle 10 sono in officina, se vuoi passare, facciamo una chiacchierata pure. Mi viene male passare tutti il telefono di te, perché in questi giorni. Però, guarda quella cosa, poi ci sentiamo al telefono. Dai, ciao, Robè. Ciao, ciao, Robè, ci sentiamo. Buona serata. Avanti, Fabri. Niente, già, non mi ricordo mai cosa sta parlando, ma mi è venuto in mente Roberto perché sto mettendo a posto un ciao, prima serie, e mi manca il parafango posteriore, a parte il fianchetto, so che manca anche a lui, è un macello qui i fianchetti, e quindi sto aspettando, se trovo il parafango così lo vernicio. E mangia lo busti qualcuno, già ce ne sono in giro, ci sono anche molti sì in giro. Ancora, solo è di usare i tuci a farsi le studie questi. No, io ne ho uno, sì, come il primo giorno, restaurato. No, il chiamo è il mio, è prima serie, le altre serie li trovo, i parafanghi questi, però la prima serie è difficile trovarli, capito? Che sono quelli degli anni 70. Ah, ecco. Vabbè, ci vanno quelli originali. Ah, io l'ho avuto, sì, da ragazzo. Ruote a raggi e sella lunga, però. Non erano ancora usciti quelle con le ruote di quelli lega leggera. Ho capito, uno tutto restaurato, c'è uscendo dalla fabbrica come quella moto che faccio io, però ce l'ho, non mai usato, l'ho restaurato, ovviamente mi è costato più di quello che vale, però è lì, parcheggiato, il targato e tutto, non ho mai nemmeno assicurato, la verità, perché non è mai uscito dal garage. Ma non partecipi ai motorraduni di questa moto qua d'epoca, non ci partecipi mai? No, non mi piace, non ci vado mai. E allora, diciamo, la tua prerogativa è averle e basta, così è, non mostrarle o venderle o cose, è interessante averle, così fartele tu e la tua soddisfazione è quella. È quella, perché siccome le rimetto a posto io completamente, dai motori alla carrozzeria e tutto, e quindi è come dei figli, no? Dai, li ho fatti, sono miei, e che se ne frega farli vedere la gente, andare in giro. Ogni tanto mi sono andato 4-5 volte in 15, una volta ogni 2 anni vado a qualche raduno perché mi costringono, se no non ci vado. La maggior parte delle volte sono andato col duetto, quello lì, quello giallo. Quello giallo. Cappa. Adesso quanto ne hai di moto, di macchine? Macchina è sempre una, perché ci vuole un garage per ogni macchina, quindi certo, mentre di moto una decina. Dovresti usarne una ogni tanto per farle girare almeno. E io l'avevo visto la Lambretta, mi pare che era quella che c'era in garage coperta. No, ci dice una Vespa sarà stata una Vespa, ma se tu vai su YouTube e digiti IS0 DDL oppure Fabrizio Murziani, qualche filmato ci dovrebbe, c'è di alcune moto che ho fatto, c'è del Tenere, di qualche Vespa, del duetto, di qualcosa, c'è qualche filmato che ho mai, anche di qualche costruzione del carrello, di qualche lavoro radioamatoriale che ho fatto. Io il Tenere è una moto che mi è sempre piaciuta a me, è una bella moto. Io avevo una dell'86, l'ho recuperata da mezzo alla pioggia, dall'acqua, era buttata lì, l'ho smontata completamente, ho cambiato tutto, mi è costata prima di comprare, ho rifatto il motore, pistone nuovo, rettificato, valvole, testa, tutto rifatto, ha durato 400 km, sono uscito quest'estate, era pronta per uscire, al 402 km mi hanno tagliato la strada, ho fatto un volo e a Dio mi fracasso tutto, l'ho portato in garage, guarda, ho terminato, sarà 20 giorni fa, che sono addirittura i pezzi li ho trovati in Australia, non ti dico altro, per poter rimetterlo a posto, quindi con tutto il mezzo diventa mio costare, l'ho rimesso a posto, adesso è in garage, è in rodaggio, ha fatto 500 km, il motore in rodaggio, nuova, nuova, come il primo giorno. Poi questo guarda su, vai su YouTube, metti il mio nome e cognome, c'è il mio canale, lì vedi un po' di lavori che faccio. Sì, alcuni già li avevo visti, poi me ne rimasti anche su, quello del tenere me l'avevo mandato, era un bel messo avanti. Quella adesso è perfetta, come più bella del Ticinete, perché adesso gli ho dato il trasparente sopra gli adesivi che l'altra volta non glieli avevo dati, perché teoricamente non erano senza, si mettevano sopra, questa volta siccome ho visto che comunque un po' potrebbero glielo, comunque è molto bella, è come le uscendo dalla fabbrica, cioè, prendete, sto uscendo dalla fabbrica, uguale. Fai già lo so che le fai bene, tu già pure le vittine più piccole, lo so che le fai bene. E ti sei fatto male quando hai avuto l'incidente? Un po', non molto, fesserie, dai, sono stato la notte un po' di febbre, mi è venuto un ginocchio un po' gonfio, ma poi è passato, diciamo un po' a dolori per una ventina di giorni, non a dolori, un po' sentivo che avevo preso il colpo, qualche liquido, ma fesserie proprio, non è che mi ha condizionato la vita, per capire, però un bel volo l'ho fatto. Senza no, piacevi il giubbotto protettivo con il paracuti? La cosa che era a luglio, stavo risalendo, erano le 3 del pomeriggio, un caldo, stavo salendo la Platamona per andare a comprare, non mi pare, una cosa a mio figlio, non lo ricordo, stavo salendo a Sassari e all'ingresso ho tagliato la strada, ho fatto un volo e rifatto la luce di corpo, il magliettino, giù mi ha sfasciato tutto. Ma perché poi l'asfalto è una cosa, ti mangia proprio la carne come strisci, è andata a vedere, meno male, perché andare in moto è come andare in mare, bisogna andare sempre di lì alla moto, solo che tu stai attento e non stanno attenti gli altri. Ma tu immagini, io sto sembrando più con queste moto, che sono come foto storiche, si fanno in mezzo, questo, proprio all'ultimo momento ha girato di colpo, io non me lo aspettavo, io avevo anche dato un'acceleratina, perché quella moto ti tende, no? Perché è bella, quando proprio, però niente, non mica facevo proprio un po' più, era tutto libero, ho dato un'acceleratina, nel momento che io sono andato a accelerare, ma sempre andando piano, e questo ha girato, l'ho visto, ho provato a frenare, invece mi sono sbattuto, ho fatto un volo, un incazzo, ragazzi. E beh, ti ha pagato. E il bello che era una macchina straniera, era uno zingaro, che cazzo quello di qualcuno. Niente, comunque ce l'ha assicurato e adesso sto facendo tutta la procedura, adesso dovrei andare a fare una visita, ma in questo periodo non posso andare. Al momento io sono anticipato, fatturato e via. Vabbè, già ti rimborsano tutto pure. Se vedono che la colpa è sua, ti rimborsano tutto qua. E vabbè, so cosa gli succede, ma anche a me era successo in moto, carbonati. Avevano cambiato la segnaletica il giorno prima. E allora avevo la ragazza carbonati di via umana. La stavo accompagnando, era in moto, tranquillo, cazzo, arriva questa macchina, la bubi guida di due, mi ha proprio preso la rotta lì davanti, siamo caduti malamente tutti e due. E mi ha detto, ma non avessi sediali, eccoli sediali, io l'ho convinto, non c'era nessuno, c'era, l'avevano appena cambiati, il giorno stesso i sediali, non c'era nessuno che ti faceva notare, tipo un vigile, una cosa. Io non ci ho fatto caso, ero talmente convinto, siccome era di notte, ero convinto che la strada fosse sempre a senso unico, invece era doppio senso. E praticamente dove era a senso contrario, non a doppio senso. E praticamente mi sono sfasciato la moto, così allora era. Aspetta che spengo qua, ma le moto sono così, un macello, infatti va. Vabbè, ma io non è che le ho prese per andarci in moto, le ho prese per farci dei girettini così e quindi non è un problema, sono tutte moto tranquille. L'unica invece, questa sia una moto storica che c'ha 5 anni, però comunque è una moto questa, questa è una moto, capito? E se non è cammina, e poi per metterla in moto bisogna andare un bel colpo alla più di fretta. No, la mia c'è il motorino d'avviamento, eh. Ah, c'è il motorino la tua? Sì, perché ci hanno fatto la prima e la seconda serie. La prima serie è quella dell'84, e poi uscita 85-86, subito poi uscita la seconda, che è uguale identica, non cambia niente, cambia solamente che questa, le scritte che sono leggermente diverse, però poi la moto è uguale identica, è tutto uguale. E c'ha il motorino d'avviamento questa. Oh, e se no come fa? Io ci ho provato questa a mettere in moto senza. Non ci sono riuscito. Ci vuole un mare di forza, bisogna metterti in piedi e dargli il colpo così, perché se no non ce la fai. Ce l'aveva Roberto, l'amico mio, e ce l'aveva così con la periferia. No, questo è il primo colpo, per considerare che ho smontato il motore, ho fatto tutto pistone, testata nuova, cilindro nuovo, tutto quanto rifatto, quindi subito metto il primo colpo. È una soddisfazione grossa, perché quando lo fai tu è l'altra soddisfazione, è tutta tua la soddisfazione che l'hai fatta, che l'hai fatta tu, che ero primo. E ci vuole lavoro, però quando uno si appenta così passa anche il tempo, non si annoia. Sto finendo, ho finito un Morini 125, vabbè, ne ho fatto due, di quell'uno l'ho regalato, devo fare un favore, l'altro è pronto da portare via il garage, ma 6-7 mila giri sta scoppiettando, ho fatto un po' di lavori, devono rimetterci male, ma è chiuso, non ho tempo di controllarlo, devo dare un'occhiata per poi portarlo via. Poi in garage sto terminando questo ciao, cioè terminato, sto facendo questo ciao e una Vespa Special 3 marce, la prima serie, che sto restaurando. E niente, e poi sto facendo, e poi adesso domani non so se ce la faccio in questi giorni, perché non viene mai uscire da casa, comunque devo fare, devo rimontare tutto, devo ripiazzare, che l'ho finito di costruire l'elevatore per portare le Vespe su, la metti di tra tra tra e lavori in alto, dai, una specie di ponte per le Vespe. Ah, ho capito. E di primavera non te ne sono mai capitato? No, magari 125 primavera mi sarebbe piaciuta quella, e anche un X 125 che ne ho avuto tanti da ragazzine, so che sono impazziti come preti, il relitto ne vogliono troppo, sono impazziti, dai. Stiamo parlando di 2000 euro, 1500, 1800, fate a nuovo, rifate tutto. Le Vespe, però a me mi piacciono originali, non col sedile germano o altri tipi di sedile, a me mi piace il sedile originale, la sella lunga sì, però di quelli originali, del primavera, le ruote del primavera, anche la Vespa 50 mi piace così, la special, con il sedile lungo, con le ruote del primavera, e sono belline, anche l'Overton 6, se te lo ricordi, quello col manubrietto piccolo. E vabbè, ma quella è quasi impossibile trovarla, quella vale 15.000 euro il 96, considera che ne ho comprato una di Vespa sotto montava i pezzi 96, solo di pezzi li ho fatti fuori, tra cuffia, pistone, testata e cose, 600-700 euro venduto solo quei pezzi, sono introvabili, quella è una moto che ha un valore incredibile, il 96, cioè sono pochissime, valgono rimesse a posto, ne trovi di qualcuna, ma la maggior parte non sono originarie, sono dei cloni. Il Vespone 125, cioè il Pix è rimesso a posto come il nuovo, 2500-3000, di meno non te lo danno, la moto da rimettere a posto 1200-1500, marciante, ma tutta da rifare, questi sono dei prezzi, per quello che stanno impazzendo. Sì. C'è anche un altro radioamatore che le fa, di Porto Torres, Tulipano, che le fa queste Vespe così, li cambia tutto, anche il bulloncino più piccolo, li cambia tutto, come fai tu? Li fa tutto, sia motore che verniciatura. Qualcuno la stava vendendo, non lo so, ma vendeva di meno, 1300, 1200, 1300, capito? No, 3, 4, 5 anni fa forse, adesso a quel prezzo, a 1000 euro trovi una Vespa tutta smontata, tutta sfasciata, 50 special, meno di dagli 800 ai 1000 euro a 1200 euro, dipende da come la moto, ma tutta da rifare. Lo so. E adesso prendono sempre valore perché stanno andando più, sempre più lontano, come per trovarle se ne trovano sempre di meno, quindi normale che acquistino valore. E sono sempre più vecchie e quindi il valore aumenta. E solo che la moto che se tenete fuori si arrugginiva, invece quelle che fanno adesso, che tu cambi un plastica, resi, no, cos'è? Lo so, vabbè, io già ci ho tutti ricoverati in garage, se no si rovinano, anzi ne una l'ho portata, adesso ce l'ho sotto casa, sempre in garage, però questa adesso avevo, vabbè, un altro problema, quella li devo portare nella garage. E che con, ne ho alcune che quest'estate non sono riuscite nemmeno a fare nemmeno un chilometro, non sono uscite. Ne ho preso una l'altro giorno, fine stagione, per fare un giretto, sono sceso risalito da Platamona, una VNB1 della prima serie, bella, e un 125 3 marce, monosella, quella l'ho portata in giro, quant'è? Ma è stata fatta almeno 5 anni fa, ho guardato, aveva 320 km, aveva fatto in 5 anni, vedi tu? Siamo molto che hanno fatto un po' più, è normale se tu li usi così poco, poi una persona non può far girare tutto, fossi stato magari con un amico, un altro che ha la passione, altri due amici, magari ci va tutti insieme e magari le moto le fai girare, ma a Razzura è un po' difficile, vabbè se ne prendi una un giorno, una o l'altro, ma visto che hai altre cose da fare, fa bene, è un casino. E poi le uni solamente d'estate, poi alla fine, d'estate poi c'è la Platamona, guarda, e il gusto di metterle a posto e averle lì e vederle, basta, solo quello è il gusto. Ma infatti, sì, sei un collezionista, basta, tu, e vederle, magari, ti piace vederle, c'è poco da fare, io... Per dire, avevo la passione dei modellini, la passione della fotografia, la passione della pesca, c'è subacquea che quella con la carne, ne avevo mille di passione, adesso piano piano ne sto eliminando qualcuna, perché troppo costose tutte quante, le mie passioni sono tutte molto costose. Sono molto costose e poi ci vuole anche tempo già. Ma infatti. Io il tempo ce l'ho, Fabri, adesso io non sto più lavorando, quindi il tempo non è quello che mi manca, però a un certo punto poi devi darti una regolata. Lo so, ma sei in pensione tu, sì. Momentaneamente sì, ho una pensione di invalidità per il momento, poi fra due anni vado proprio con la pensione giusta. Ho capito. No, grazie a Dio non sto male perché è una buona pensione, quindi rispetto per campagna eccetera. Qui adesso ho dato le dimissioni, quindi ho preso la liquidazione, tutto quanto, dopo 38 anni. C'è un brutto letto là. E allora già va bene, dai, tanto. L'importante è pregarsi la salute e avere il tanto per campare. Sì, ma infatti. E anche di più, ma non c'è problema. Io non mi posso lamentare, su quel punto di vista non mi posso lamentare, sto bene. L'importante è quello, poi in questo periodo lasciamo perdere. Molta gente sta chiudendo, facendo qua, è un casino. Vabbè che mi sono pagato 3.000 euro di tasse in contanti. Vuol dire che ne vanno pagate. Pagate voleva. Quando superi il limite se ne fanno pagare sì. A me lo dici. Adesso si possono ammortizzare. No, tutto in contanti. Perché ho fatto il modello unico, perché ho dovuto fare un'integrazione a 7.30. Dammi il gusto. Se c'è qualcuno che vuole entrare avanti, forse sei scritto già male. Mi allontano un attimino, anzi rimango qua, ma devo vedermi e leggermi due cose e poi inizio a vedere. vedere un attimino altre cose. Mi ha fatto piacere, se ci sei, magari se sono qua magari pur riprendo, dai che mi leggo due cose, grazie delle quattro chiacchiere già. Ehi, ciao Fabi, ciao, ci sentiamo, dai. No, io adesso fra poco alle 8 vado a portare giù il cane, faccio la passeggiatina che già serve, ogni tanto faccio la passeggiata. La passeggiatina col cane e poi l'ho fatto uscire poco stamattina perché stavo aspettando un pacco e lo stavo tentando, invece è venuto a luna a portarlo. E quindi l'ho fatto girare un po' così, faccio fare un giro più grande. Ci sentiamo Fabri, dai, stavi bene, ciao. Ciao già. Ci sono Anto, ci sei? Vedi un pollo? Dove sei? A casa. Sì, arrivi benissimo Anto, vabbè io sono lo Smith secco, stai arrivando, fa passaggio. Vabbè, considerati che sto usando un apparecchietto con microfono originale, sono a 3, 4 e mezzo. Vedi un po', 1, 2, 3, prova. 9.10 sei Anto, vabbè fai che sei 9.20, da, 9.25, c'è cioè un po' secco questo Smith. Ehi, vabbè, va bene, comunque mi sento bene, se ti senti bene, l'antenna sta funzionando, mi interessa sapere quello. Marco, per quanto riguarda, io la voglio mettere sul tetto di là, però devo sapere cosa devo fare. Guarda, io ti ho detto che ho tagliato un pezzettino, lungo quanto il telefonino, ho un pezzo uscito a giusticato. Ma se la metti sul tetto magari non c'è bisogno di tagliare nulla, io l'ho tagliata perché comunque l'ho provata e mi dava troppe stazionali negli altri canali. Ho capito, a me i canali bassi a 5 me li dà, praticamente nel 10 1 e 1, adesso sono da mamma, però là nel 40 1 e 5, nel 45 1 e 6, 1 e 7, 1 e 8. No, io nel 45 c'ho un 1 e 2 al massimo, dipende da quanti bassi siano, sai che man mano che aumentano i bassi si prendono un pochino le stazionali, ma con 10-15 bassi. L'ho tarata in campagna io però, prima me la sono tarata giù perché poi cazzo mi sono detto come faccio a piattarla. Allora, domenica dobbiamo piattarla, se sei libero ti vuoi fare un salto, non lo so, giù però, sempre dalla 25, se hai tempo, se no la lascio così, se la vieni in luci. Ho preso un palo da 4 metri, due staffe belle, massicce lì da dove mi hai detto tu, dove compro il capo dell'antenna della TV, da, lì da cosa, da, mi ricordo il nome. Ehi, da Fabio. Ehi, sì, ho preso il palo, due staffe, 30 euro. Ascolta, portatilino dell'altra frequenza, ne hai? Sì, sì, vai. Parla. Non mi senti? Blu. Beh, tu. Non mi senti? Ti sento benissimo, tu non mi senti? No, ti sento per niente. Picchiata, boh. Mi parla. 1, 2, 3, 4, 5, ma non ti sento a te. Cosa vuoi che dica? Non so cosa dire, tu arrivi a fondo scala. No, se tu non senti a me che è diverso, ma la ricezione è quando c'è lo squelch. Aspetta un attimo, che magari c'è il portatile del casinato lì, guarda. Che te l'arrivi a fondo scala, se vuoi ti mando un video. Dai, che c'ho Anto, 5 minuti ancora neanche, che poi mi devo preparare anche la cena, che la 25 se aveva comprato la pizza e mi devo preparare la cena dopo. Dai, vai Lu, lo proviamo un altro momento, non ti preoccupare, a me interessa sapere che l'antenna è andato bene. Dai, non ti preoccupare, vai, lo proviamo un altro momento. No, è che mi dispiace che non mi senti a me, cazzo, arrivi bene. Aspetta che provo, che adesso provo a mettere l'antenna in gomma. Provo a mettere l'antenna in gomma. Ma quanto è l'antenna, sì? Allora. Ma lo squelch quanto ce l'hai? Non lo so Lu, perché adesso non lo so, non mi ricordo neanche come si regola quanto lo squelch qua. Ma che cos'è, Moffen? Il piccolino quello 5R. Le impostazioni ti hanno da subito squelch, poi fai menu, scendi e lo metti a 1. Cioè, siamo bizzini burro, Pomponi mi arriva bene, io ci arrivo bene a Pomponi, a caso ne arrivo 9, cioè alla Tedo ci arrivo bene, cazzo arrivo a te, vuol dire un problema è tuo. Aspetta un attimo, faccio passare, lo chiedo a Claudio un attimo, aspetta. Alberto? Io lo squash ce l'ho a 5, per diminuirlo cosa devo fare? No, per diminuirlo devo fare, vai su menu, aspetta, faccio la guida, su menu. basso e schiacci menu di nuovo e con le freccette lo regoli. Adesso l'ho messo a zero. No, non mi senti tanto. Ah, quel portatile c'ha problemi. Sì, guarda, senti. No, ma parlare, guarda. No, non lo so, no. Aspetta un attimino, aspetta.